Fammi scrivere parole che la mia bocca non sa dire. Stella, luminosa come il sole, corri in fretta sul mio cuore. Non farmelo morire. Stella, scrivi tutto il mio dolore con l'inchiostro che ha sporcato questa notte senza amore. Nero cielo di una notte, dammi luce e tenerezza, fai brillare la tua stella proprio sulla mia terra. Fogli che cadono come la neve, treni che viaggiano oltre le stelle. Ho preparato le valigie con il mio cuore, le chiavi stella, portale tu. Stella, scendi giù, vienimi vicino, entra dalla finestra, infilati nel mio taschino. Specchiati nel comodino della mia camera da letto, io sarò lì dietro alla tenda in silenzio che ti aspetto, che ti aspetto, che ti aspetto. Stella, stella bella del mattino, scendi in fretta che è già l'alba, scendi negli occhi di un bambino. Stella, solitaria in mezzo al cielo, nero come una lavagna, dammi luce quell'amore che mi asciuga, mi ribagna nel domani di questa notte nostalgica malinconia. Parole scivolano dal mio cuore, cadono sopra il foglio, fischia un treno che arriva alla stazione, ho quasi finito la mia canzone. Queste sono le parole che la bocca non sapeva dire. Stella, tra miliardi di persone, forse non mi puoi sentire. Stella, guarda com'è alto il sole, mi si sciolgono le parole, è un inchiostro che sta per finire. Stella, ci vediamo un'altra notte, c'è già gente per le strade, adesso corri, vai a dormire.